La storia e la memoria di Dino Pesole. Nell'anno in cui si rievocano i 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, proviamo questa sera a focalizzare la nostra attenzione non tanto sulle cause che portarono a quella immane catastrofe, a lungo dibattute, ormai largamente note. Da lontani antenati di quei giovani di poco più di 20 anni chiamati a combattere una lunga, estenuante guerra di trincea, logorante sia sul piano fisico che su quello emotivo e psicologico, spostiamo oggi la nostra attenzione proprio sui sentimenti, gli stati d'animo di quei 4,5 milioni di soldati italiani impegnati direttamente nelle operazioni di guerra al fronte contro il nemico austriaco. Lo facciamo in compagnia di Nicola Maranesi, che ha appena pubblicato per Il Mulino un libro dal titolo Avanti sempre, emozioni e ricordi della guerra di trincea 1915-1918, che è in studio con noi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori, grazie. Gli stivali di un soldato proteso in un salto si staccano dal ciglio di un treno militare, giunto all'ultima fermata vicino alla linea del fronte, in direzione del Carso, in una notte di fine maggio del 1915. La Prima Guerra Mondiale è appena iniziata anche per l'Italia. L'istante che accompagna lo slancio di quell'uomo e ne precede l'arrivo a terra è uno spartiacque di vita. Dal momento in cui i piedi affondano nel fango rosso, tutto cambia. Gli occhi che si staccano dal suolo e scrutano nel buio hanno di fronte scenari mai visti. Le orecchie che si sforzano di intercettare i suoni circostanti non ne riconoscono la natura. Il naso slanciato in aria è investito da odori sconosciuti. Il cibo e le bevande sono irriconoscibili, le mani costrette a toccare ciò che non avrebbero mai neppure sfiorato. Comincia così la grande guerra per oltre 4,5 milioni di soldati italiani. È l'inizio di un cammino particolare che non sarà scandito da spostamenti fisici ridotti al minimo nella guerra di trincea, ma dall'evoluzione degli stati d'animo dei combattenti all'interno dell'esperienza bellica. Al fronte, regole indecifrabili impongono un percorso emotivo a tappe forzate, che conduce dalla presa di coscienza all'inquietudine, dallo smarrimento alla frustrazione, dallo sconforto all'agitazione, dall'oppressione alla paura, dalla rassegnazione al terrore, dall'annichilimento all'affermazione della volontà di sopravvivere e ricominciare a vivere, nonostante tutto, già all'interno del labirinto delle trincee. Impossibile fermarsi, lei scrive nel libro, tornare indietro o uscire. Bisogna andare sempre avanti, appunto, avanti sempre, come è il titolo del libro. Proprio come gridano i fanti prima di lanciarsi fuori dai cunicoli fangosi alla conquista delle trincee, delle pallottole nemiche. Dunque, avanti sempre, Nicola Maranesi. Avanti sempre, che è una formula che ritorna molto spesso nelle testimonianze di questi soldati che manifestano con queste due parole che richiamano anche il grido di battaglia che era tipico dei soldati slanciati all'attacco, e con queste due parole manifestano questa sensazione di opprimente costrizione che vivono durante l'intera esperienza di guerra, dall'arrivo al fronte al ritorno a casa. Lettere, memorie, epistolari, nella sua ricerca fondamentale è stato il materiale conservato presso il fondo inedito Guerra Mondiale 14-18 dell'archivio Pieve Santo Stefano. Ecco, in che modo ha contribuito questo archivio a ritrovare questi materiali forse nemmeno tanto noti? Assolutamente inediti, è stato un contributo determinante. L'archivio diaristico nazionale Pieve Santo Stefano da 30 anni, dal 1984, raccoglie questo genere di testimonianze autobiografiche in generale, ed è riuscita a raccogliere addirittura quasi 350 relative proprio alla Prima Guerra Mondiale. Un fondo decisamente ricco e che ho avuto la fortuna e il privilegio di poter esplorare negli ultimi 10 anni, e grazie al quale ho potuto ricostruire questa esperienza di vita così estrema. Drammatica. Allora proviamo un po' a raccontarla ai nostri ascoltatori, questa vita di trincea di giovani che avevano poco più di 20 anni, i sentimenti, le angosce, le paure. Assolutamente, giovanissimi che sono catapultati in una dimensione di vita assolutamente diversa da quella alla quale erano abituati, per lo più ragazzi che vivevano vite tranquille in città o in campagna, soprattutto in campagna, che si ritrovano da un momento all'altro a dover lottare per sopravvivere, a dover lottare anche non esclusivamente contro il nemico, ma contro tutte quelle restrizioni che la vita in trincea imponeva loro. E l'approccio naturalmente con questo mondo è complicatissimo, l'adattamento di questi ragazzi a queste nuove condizioni di vita è complicatissimo e dovranno profondere notevoli sforzi per riuscire a sopravvivere in quel contesto. E la sequenza che io ho cercato appunto di ricostruire con un percorso mediano fra centinaia di testimonianze che ho potuto leggere è quella proprio di un progressivo adattamento che porta prima questi ragazzi a cercare di trovare dei modi per evitare di morire, molto semplicemente. E piano piano la drammaticità di quel tipo di vita li costringe a accettare il fatto che la morte potrebbe essere un elemento assolutamente probabile della loro esistenza. E dunque si passa piano piano a un'accettazione, a una rassegnazione nei confronti dell'elemento morte, che è assolutamente una negazione della natura umana. Chiunque non potrebbe accettare di morire consapevolmente. Piano piano, ed è questo l'elemento forse più sorprendente che si evince dalle letture di queste testimonianze, i ragazzi riescono a mettersi addirittura alle spalle questa paura di morire, a convivere con essa, imparano a convivere con la paura di morire e ricercano all'interno di quel contesto di vita così estremo quei piaceri piccoli o grandi, quei valori piccoli o grandi che nella vita normale li avevano, che già avevano provato una vita normale, dunque l'amore per una ragazza o l'affetto nei confronti della propria madre, oppure cose semplici come un pasto, un buon pasto, oppure un sonno su un comodo giaciglio, diventano queste piccole cose delle ragioni per non abbandonarsi, per non mollare, ma per continuare ad andare avanti. Per non mollare soprattutto dal punto di vista psicologico, perché immagino che fosse proprio questo l'elemento. Infatti non a caso nel suo libro si parla appunto evitare di morire, sopravvivere, cercare delle strade per far fronte a una situazione non voluta, perché l'altro aspetto che spesso si tende a sottovalutare è che questi soldati non avevano alternative, la rigida disciplina militare non consentiva strappi di nessuna natura, eppure si trovavano a dover combattere con i loro stati d'animo a distanza di 200-300 metri dalla trincea nemica, la terra di nessuno. Insomma, sono tutti elementi che fanno capire a distanza di 100 anni quale fu lo sforzo, al di là poi dell'aspetto militare, di questi giovani. Assolutamente, uno sforzo psicologico, uno enorme. Sforzo umano, anche nel cercare dentro di sé quello spirito di aggressione che nessuno aveva coltivato per nessuna ragione, quindi trovare il desiderio, la volontà di obbedire agli ordini e uccidere un nemico, una cosa estremamente difficile che spesso torna nei ricordi, nei racconti di chi ha combattuto. La domanda veramente perché dover uccidere un ragazzo che stava a poche centinaia di metri e che in tutto e per tutto era simile a se stessi o ai propri commilitoni? Beh, è un po' l'assurdo di una guerra che di fatto esplode nel pieno del cuore dell'Europa, diventa una guerra mondiale, un'immane catastrofe, l'inutile strage, come la definì il Papa, e che poi effettivamente produce questi effetti, oltre al danno in termini di perdite di vite umane, enorme, ma il danno forse irreparabile in quei pochi che tornarono dal punto di vista emotivo e psicologico. Anche questo è un passaggio interessante nel suo libro. Sì, tornano già durante il conflitto, nelle poche occasioni che avevano di tornare a casa per le licenze, ma soprattutto alla fine del conflitto, sono ragazzi trasfigurati, sono ragazzi che sono irriconoscibili, e lo sarebbero stati in maniera veramente irrecuperabile se non avessero trovato il coraggio e il desiderio di attaccarsi alle piccole cose di tutti i giorni, alle piccole cose della vita quotidiana, che sono quelli che gli permettono di sopravvivere. Allora, un'ultima domanda, abbiamo pochissimo tempo. Cosa insegnano questi giovani a distanza di 100 anni ai giovani d'oggi? Io credo molto, almeno hanno insegnato moltissimo a me, che ero molto giovane quando mi sono messo a rovistare tra le loro testimonianze. Ero un ragazzo che, come forse è normale che sia, si poneva tutti i dubbi della vita quotidiana di un adolescente, si reputava difficilissima la prospettiva di una laurea, di una carriera, di fidanzarsi, e capire che dei miei coetanei di 100 prima avevano vissuto quel tipo di esperienza bellica, ma anche emotiva, interiore, mi è servito moltissimo a misurare me stesso e a capire quale dovesse essere il vero valore dei miei problemi e delle mie perplessità. Benissimo, allora molte grazie a Nicola Maranesi, autore di questo bellissimo libro, Avanti Sempre, emozioni e ricordi della guerra di trincea 15-18, appena pubblicato dal Mulino. Buonasera. Grazie, buonasera.